A bordo campo di Dario Ricci. È la terza industria in Italia, non conosce crisi e aumenta ogni anno il suo giro d'affari, che è stimato in 76,1 miliardi di euro. Stiamo parlando del gioco, il gioco legale, certo, inteso come slot machine, gratta e vinci, bingo varie, ma anche, ai noi, quello illegale, sempre più in mano alle organizzazioni criminali. Vale in termini di giro d'affari quest'ultimo, pensate, 10 miliardi di euro, e vede coinvolto 41 clan su per giù, tra mafia, camorra, 'ndrangheta. Questi i numeri da far venire i brividi, in realtà, che emergono dal dossier Azzardopoli presentato da Libera sul gioco d'azzardo in Italia. E di questo oggi vogliamo parlare qui a bordo campo, perché è inevitabile poi che dal gioco legale, e soprattutto quello illegale, si sconfini spesso nell'inquinamento dello stesso sport. Vero Daniele Poto, benvenuto qui a bordo campo, nostro ospite e curatore del rapporto Azzardopoli per l'Associazione Libera. Benvenuto. Buongiorno a voi, devo aggiornarti praticamente in tempo reale, quando ormai si sta concludendo il 2012, quei dati a dimostrazione di come siano in una progressione inarrestabile, quasi esponenziale. I clan criminali sono diventati 49, la raccolta del fatturato a fine anno, la previsione è di 88 miliardi, quindi con un aumento del più del 10% rispetto all'anno precedente, e l'apporto del valore illegale sul gioco d'azzardo dovrebbe crescere da 10 a 15 miliardi, quindi sono cifre inarrestabili, mentre da una parte, nonostante tutte le sigle che Cresci Italia, Salva Italia, Spending Review, caliamo a tutti i livelli, cala il PIL, aumenta la recessione, quindi gli indicatori economici sono disastrosi, il gioco d'azzardo continua a progredire secondo una spirale innestata dallo Stato, che non si può definire diversamente da Stato biscazziere, secondo la fortunata formula di un libro. Eh sì, insomma, come vedete, come ci ricorda Daniele, numeri che aumentano di giorno in giorno, e viene da dire, fosse così per altri fondamentali un po' più solidi della nostra economia, non staremmo in questa situazione. Al di là dei facili moralismi, però, con Daniele Poto facciamo un'analisi della situazione. Dicevamo, il problema che avete analizzato in questo rapporto, oltre a essere quello del gioco illegale, su cui qualcosa pur cominciamo a capire, è proprio quello relativo al gioco legale, perché attraverso il gioco legale si incassa, sì, e soprattutto lo Stato rimpingua le casse, ma poi i costi sociali sono su per giù tali da annullare quei vantaggi iniziali, no Daniele? Sì, nella nostra esposizione, a fronte di un guadagno che va diminuendo per lo Stato, alla fine del 2012 sarà di 8 miliardi, quindi calando rispetto agli 8,8 miliardi del 2011, ci sono dei costi sociali infinitamente superiori. Quelli che abbiamo stimato con una grande prudenza, tra l'altro sicuramente per difetto, sono almeno di 6 miliardi, con una sommatoria di varie voci che indicano l'apporto del fenomeno usuraio, oppure l'indice di separazione, perché un 7% di separazione ad esempio sono dovute al gioco d'azzardo, le famiglie si rompono, si spaccano per la crisi economica dovuta al dissanguamento finanziario perché uno dei due coniugi incomincia a giocare compulsivamente, insomma un apporto infinito di voci che determinano una cifra, un costo sociale stimato in 6 miliardi, a questi dobbiamo aggiungere 3,8 miliardi che sono la differenza di prodotti tassati con l'IVA ordinaria, quindi al 21%, invece rispetto al PREU che mediamente si assesta intorno all'11,5%, quindi si aggiungono 3,8 miliardi che potrebbero essere spesi in beni di consumo, sicuramente più primari rispetto a quanto viene investito o buttato, forse più giustamente dire, nel gioco d'azzardo, quindi 6 più 3,8 fa 9,8 miliardi, ecco già annullato il vantaggio per lo Stato che è di 8 miliardi. Eccoli qua, insomma, i conti della spesa sociale ai noi tornano, ma anche quando purtroppo non ce ne si vuole, quando purtroppo non si riesce a rendersene conto. Praticamente spendiamo come italiani in media 1260 euro pro capite all'anno in gioco. E, dal punto di vista invece, tornando per un attimo al gioco illegale, vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori un po' qualche meccanismo attraverso cui le grandi mafie si impossessano del gioco d'azzardo e ne traggono profitto. Ci sono per esempio dei modi di sofisticare le cosiddette macchinette, videopoker, le slot machine, che una persona disinteressata al tema neanche se l'immagina. Sì, prima di citarti qualche esempio vorrei dirti che bisogna distruggere il facile luogo comune che il gioco legale sbarra le porte al gioco illegale, perché i due settori sono pericolosamente contigui. Mi è stato fatto osservare da psicologi che non c'è nessuna forma diversa di dipendenza, ad esempio, da chi pratica, non so, frequenta una slot in una sala legale e una che frequenta un giocatore di una sala illegale, perché naturalmente i termini della dipendenza tecnicamente sono gli stessi. Veniamo ai tipi di trucco. Beh, naturalmente una slot, una videolottery può essere manipolata, si può creare una macchina clone che quindi finge e che quindi lavora, diciamo, per il clan criminale, mentre una ufficiale lavora a piccolo regime per la SOGEI, per i monopoli, quindi per lo Stato. Ma ci sono, questo è il caso più semplice e classico, forse superato, ci sono 7 diversi modi di truccare una videolottery. Le fantasie delle mafie criminali applicate al gioco d'azzardo sono infinite, naturalmente un po' come la storia del doping e dell'antidoping. Quelli che praticano il doping sono sempre un pochino più avanti di quelli dell'antidoping. Mi fa sorridere, Daniele, quello lì, quel metodo per cui tu magari stai giocando al videopoker, quando entra la guardia di finanza nel bar o nella sala, con un telecomando da lontano il gestore cambia immediatamente la schermata e quindi risulta che stai quasi giocando a Pac-Man o a un qualsiasi altro videogioco. Escono i finanzieri e riparte la macchinetta, no? Sì, naturalmente poi bisogna anche aggiungere che i controlli dei finanzieri sono rari e radissimi, perché la nuova legge, il nuovo decreto legge Balduzzi, secondo me assolutamente demagogico, prevede 10.000 controlli all'anno. Pensiamo che le slot in Italia, solo le slot, poi il mercato dei giochi è infinito, sono 410.000, e quindi, come dire, nel corso di un anno una slot su 41 viene controllata, cioè è un sistema di controlli assolutamente risibile, insomma. Certo, si entra nel bar soprattutto per prendere il caffè a quel punto, visto la percentuale risibile. Sì, poi la diffusione delle slot ormai è praticamente indiscriminata. Io ho una casistica, abbiamo delle slot nelle latterie, abbiamo le slot nelle stazioni, la stazione di Prato è infestata dalle slot, non fanno in tempo a aprire i bar alle 6 di mattina d'inverno col buio, che i primi utenti non sono quelli che prendono il caffè, ma quelli che i giocatori compulsivi che si avvicinano a queste slot. Abbiamo anche delle slot messe vicino ai benzinai, cioè quasi accostate ai benzinai. Cioè, uno deve fare benzina, deve giocare alla slot. Ormai veramente si sta cercando di sviluppare la dipendenza, e non a caso i giocatori patologici in Italia sono 800.000. Insomma, si sta determinando un mutamento antropologico dell'italiano, che non è un inglese, non era portato al gioco, ma naturalmente con questa offerta indiscriminata le patologie aumentano e il paese sta cambiando. Ecco, in passato per Libera ti sei occupato anche di un altro rapporto, di un altro dossier che poi è diventato un libro fondamentale sul tema, cioè la penetrazione delle mafie nel calcio, soprattutto nel calcio di base. Tema ormai all'ordine del giorno, anche se queste organizzazioni continuano a sorprenderci per la loro fantasia criminale. Ecco, qual è il legame tra questo flusso immenso di denaro che viene riversato nel gioco e lo sport praticato, lo sport di base, lo sport che conosciamo e che amiamo? Beh, insomma, il legame è molto tenue, c'è uno sport dilettantistico che ha una sua fertilità, originalità incorrotta, e dall'altra parte c'è il calcio, insomma, voglio dire, il minimo comune denominatore, le scommesse sportive, le partite truccate. Il mio libro è uscito ormai da 2 anni, ma quello che è successo dopo non era neanche lontanamente prevedibile. Tra l'altro sono contento di aver aperto un filone, perché sono usciti 5-6 libri sulla materia, li hanno scritti magistrati, colleghi, giornalisti, scrittori, e indubbiamente vuol dire che il fenomeno, colleghi di Pubblica, assolutamente di attualità. Come adesso stanno uscendo dei libri sul gioco d'azzardo, ma stanno uscendo anche film, sceneggiati televisivi, vengono fatti spettacoli teatrali, a dire insomma della rilevanza dell'argomento, perché non parliamo di una cosa minore. Quando una cosa vale 88 miliardi è una cosa che sposta l'economia italiana e sposta anche gli italiani, e purtroppo movimenta anche le loro patologie. tanto duri nell'analisi del fenomeno quanto propositivi, no? Voi di Libera, tramite l'associazione, avete trovato anche una voce attraverso cui far arrivare sui tavoli della politica, sui tavoli della cosiddetta società civile, delle proposte per superare i fenomeni che descrivete in questi testi. Ecco, proviamo a sintetizzare, Daniele, come se ne esce, quali possono essere le politiche di contrasto, di gestione da mettere immediatamente in campo? Ma dico le nostre quattro principali proposte, che erano poi quelle che abbiamo rivolto ai senatori, diciamo alla lobby buona che ci affianca in questa battaglia a livello trasversale, un po' di tutti i partiti. Naturalmente noi proponevamo che di questi 88 miliardi in divenire una percentuale dell'1, dello 0,5% fosse destinata alle patologie. Il decreto legge Balduzzi, praticamente la patologia è stata inserita nei LEA, ma non è stata finanziata, e quindi, dato che la sanità perderà 24 miliardi di qui al 2014, c'è da chiedersi come i malati di gioco saranno curati. Poi proponevamo una moratoria, cioè, come dire, stato fermati per un anno, non introdurre nuovi giochi, cerchiamo una riflessione su quanto sta avvenendo e su come sta cambiando il panorama. E poi naturalmente forme molto più severe sulla pubblicità, forme maggiori di controllo per i minorenni che giocano, li ho visti io, entrano i 14enni a giocare nelle sale. Non vogliamo essere proibizionisti, ma vogliamo che l'azzardo venga portato un po' più dalla parte del gioco, che voglio dire anche lo Stato provi a guadagnare su un gioco che poi mobilita espressioni anche creative e fantastiche dell'animo umano quando non è azzardo, quindi quando la vittoria non è puro frutto del caso, di un'assoluta casualità, pensiamo al gratta e vinci. Libera dialoga anche con lo sport di alto livello, mi viene in mente la visita a Rizziconi della nazionale di calcio guidata da Cesare Prandelli, che porta poi in trionfo Don Ciotti. Ecco, su questo tema state dialogando anche con lo sport italiano d'alto livello, e se sì, quali risposte state trovando? Diciamo, quando uscì il libro delle mafie sul calcio ci fu un abboccamento anche con l'allora neo presidente dell'Associazione Calciatori Damiano Tommasi, la proposta di un convegno, ma devo dire che con la Federcalcio, naturalmente, perché ognuno vende il suo prodotto, ma noi non vendiamo prodotti, cerchiamo di vendere buone pratiche, semmai. Naturalmente nel calcio la filosofia è quella di non disturbare il manovratore, lo vediamo con gli scandali, in estate i giornali ribollivano con gli scandali del calcio, poi naturalmente comincia il campionato, si dimentica tutto, il tifoso ha scarsa memoria e quindi si torna a tifare sui campi, a dimenticarsi di quello che è successo mentre sono ancora vivi i processi. Naturalmente Don Ciotti ha trovato in Prandelli un ottimo interlocutore, non sarebbe stato altrettanto facile il rapporto con Lippi, però bisogna sempre tenere la guardia alta, pensate che a Rizziconi Don Ciotti era stato 2 anni prima in sordina per inaugurare quel campo di calcio. Passati pochi giorni, gli 'ndranghetisti avevano distrutto il campo, avevano seminato vandalismi vari, il campo non era più agibile, quindi voglio dire, la realtà poi di tutti i giorni, quando la nazionale se ne va, è molto più dura e viene vissuta dai praticanti, dai volontari di Libera ogni giorno sulla propria pelle. Eh sì, testimonianza amara quella che ci porti, caro Daniele Poto, però ti chiedo anche una parola di speranza. Stiamo per iniziare un anno nuovo e quindi dobbiamo sperare ed essere fiduciosi malgrado tutto, malgrado anche queste analisi impietose. Raccontaci, salutiamoci con una testimonianza che ci porti un po' di ottimismo in questo quadro così fosco. Ma c'è tanta gente che lotta e si batte e si sbatte e lo fa anche gratis, lontano dai riflettori del professionismo, insomma anche gli sport piccoli. Purtroppo devo dire che io sono talmente pessimista che poi facendo tutto il giro a 360 gradi alla fine devo essere ottimista per forza. Concludo con un pensiero un po' pessimistico sullo sport. Adesso si stanno facendo tutti i bilanci di fine anno dei campioni dell'anno, le solite cose delle riviste internazionali, da Sport Illustrated in giù, e non c'è nessun italiano. Non c'è nessun italiano tra gli uomini, tra le donne, non c'è nessuna squadra, insomma non riusciamo più a lasciare il segno con i mitici personaggi di una volta, che fossero i Berruti, i Mennea, i Di Biasi, naturalmente vinciamo nella scherma, ma non è abbastanza popolare e universale da imporsi nei sondaggi e nei referendum. Beh, allora speriamo proprio che l'anno nuovo ci porti un grande campione o più campioni da amare, perché anche Londra 2012 ha dimostrato che qualche campione ce l'abbiamo, ma soprattutto direi che la riflessione da fare è che cambi un po' lo sport di base, il rapporto degli italiani con il gioco, con quell'azzardopoli, con quella città del peccato, diciamo così, che hai descritto nel tuo rapporto, e speriamo anche che, sciolti i nodi della politica che in questi mesi dovremo affrontare, si pensi poi ad affrontare concretamente questo tema e a seguire anche un po' i suggerimenti che arrivano dalle pagine raccolte da Libera. Grazie a Daniele Poto per essere stato oggi nostro ospite qui a Radio 24 a Bordo Campo. Grazie a voi. Oggi a Bordo Campo vi raccontiamo una storia davvero singolare, divertente, curiosa, che è una sfida, una speranza, un sogno al tempo stesso. Un sogno che unisce l'Italia delle nevi, del ghiaccio e degli sport invernali, e in particolare dello sci, ma anche l'Africa, il Senegal in particolare, con una meta altrettanto esotica, la Russia, Sochi 2014, le prossime Olimpiadi invernali. Beh, tutto questo è sintetizzato da la nostra ospite Aminata Gabriella Fall, per tutti Ami, classe 1979, bresciana, bancaria e sciatrice quanto mai appassionata. Vero Ami, benvenuta a Bordo Campo a Radio 24. Grazie mille, ben trovati. Sì, esatto, hai riassunto tutto in poche parole. Proprio bancaria, metà senegalese, metà italiana, con un sogno che è quello di andare a Sochi. Ecco, adesso ci arriviamo a questo sogno. Tra l'altro ti becchiamo proprio in altura, perché so che sei a Santa Caterina Valfurva sulle nevi, proprio perché ti stai allenando, vero? Esatto, beh, finalmente quei primi fiocchi di neve si sono intensificati gli allenamenti e ho avuto occasione appunto di venire in questi posti bellissimi a fare quattro palle di gigante per iniziare a prepararsi poi alle gare. Infatti, senza perdere l'occasione, dicevamo, sogno di Sochi, che è del tutto particolare, perché tu sei figlia di un senegalese e di una mamma italiana, quindi insomma diventa veramente curioso sognare un'Olimpiade già per chiunque di noi si avvicini a una disciplina difficile come lo sci. Lo diventa ancor di più per chi come te vuole essere la prima rappresentante donna del Senegal alle Olimpiadi invernali. Questa è la grande sfida. Decisamente sì, diciamo che lo faccio soprattutto per ricordare mio papà, perché sebbene fosse senegalese è stato il primo a mettermi sugli sci quando ero piccola e poi è venuto a mancare sempre quando ero piccola, quindi è un modo un po' per ricordarlo in un'età un po' più matura, nel momento in cui ho approfondito questa passione per questo sport, che effettivamente non è proprio facilissimo e per cui richiede ancora più impegno. Per quanto riguarda essere rappresentante del Senegal, da un lato ho il vantaggio che non ho paragoni, dall'altro comunque devo assolutamente mettere il punto di partenza per, spero, una stirpe di sciatori africani. Eh sì, insomma, sei la portabandiera e tra l'altro penso candidata numero uno anche a questo ruolo nella cerimonia d'apertura, se tutto va bene. Non dovresti avere tanti rivali. Diciamo di sì, se tutto va bene sarà così, anche perché il Senegal ha una storia, non tutti sanno che ha una storia comunque nello sci, perché hanno iniziato negli anni 70 con il mio presidente a partecipare alle Olimpiadi con la Mingay, e successivamente è subentrato un altro ragazzo che ha fatto Torino, ha fatto il Canada, e quest'anno nel 2014 si spera tocchi a me a portare avanti questa bandiera. Senti, allora quotidianità degli allenamenti e del lavoro, che com'è scandita? Perché sento dalla tua voce che la speranza e la determinazione sono tante, ma c'è anche bisogno di tanto lavoro specifico. Assolutamente sì, anche data l'età, diciamo, perché non ho 17 anni, quindi bisogna lavorare un po' su tutti i fronti. Le 8 ore lavorative ci sono, perché comunque come la gran parte degli italiani c'è da lavorare. La mattina, quando il tempo lo permette, piuttosto che in palestra, si fa quell'oretta di lavoro, un po' di cardio, poi si va a lavorare alle 8:15, per cui non è che orari privilegiati. Insomma, le 8:15 già una buona parte della giornata è fatta. Sì, diciamo di sì. decisamente. E poi la sera, appena si finisce, si fa un altro giro in palestra, curando bene l'alimentazione e facendo attenzione a una vita proprio salutistica come gli sportivi di professione per il resto, ecco. Ecco, dal punto di vista tecnico so che ti alleni col gruppo master di Omar Longhi, Passo del Tonale. Quali sono i tuoi luoghi preferiti? Sì, diciamo che ho modo di spaziare tra varie valli perché mi muovo tra Madonna di Campiglio, poi ho la sede fissa degli allenamenti appunto al Passo del Tonale, quest'estate sono stati parecchio allo Stelvio e in questi giorni a Santa Caterina, però diciamo che restiamo sempre in questa zona a cavallo fra il Trentino e la Lombardia, che sono anche le zone un po' più vicine a dove abito. Beh, insomma, che poi le cose che stai... Che poi il lavoro sia quanto mai serio è definito anche dal fatto che l'attrezzatura tecnica è di prim'ordine, chiaramente sei anche seguita dalla Ortolab Sport che garantisce per te paracolpi e tutori, insomma siamo quindi all'eccellenza dei materiali, ma chiaramente bisogna metterci anche tanto lavoro sopra, no? Assolutamente sì, ecco, sicuramente la Ortolab, la persona di Stefano che è il titolare, ha creduto subito in questo progetto, per cui ha cercato di darmi il top della gamma tra paracolpi e soprattutto plantari per quanto riguarda appunto per migliorare la performance a livello di equilibrio e postura, per cui su quello non ho scuse. se proprio sbaglio qualcosa non è colpa dei materiali sicuramente. Anche perché, come giustamente sottolineavi, sei un atleta anche per età 33 anni matura e quindi da questo punto di vista nella prestazione tecnica come influisce, quali accorgimenti in particolare usi, ecco? Beh, ho lavorato tantissimo quest'estate sulla resistenza, perché è la cosa principale, uno sport anaerobico, una discesa dura un minuto neanche e mezzo, per cui c'è bisogno di calibrare lo sforzo nell'intensità proprio di quel momento, per cui si lavora tanto a livello aerobico, si lavora tanto in palestra a livello muscolare, si cerca diciamo di integrare il più possibile con la forza fisica anche magari alcune carenze tecniche, perché purtroppo appunto non ho iniziato a sciare da piccolissimo. Per cui sicuramente anche sulla tecnica sto lavorando parecchio, però a livello fisico ci diamo dentro con tanto lavoro in palestra. Senti, a Dakar come è stata accolta la notizia? Il Senegal come ti sta seguendo? La federazione ti è di supporto e in che modo? Assolutamente, la federazione è di supporto e ci crede, adesso stiamo cercando di accedere alle borse di studio diciamo che vengono indette dal CIO per le federazioni che non hanno appunto una storia come può essere l'Italia o la Francia, in modo da avere anche un piccolo supporto economico extra oltre al mio stipendio. E poi diciamo c'è stato interessamento anche la stampa, mi hanno già contattato qualche articolo e poi ho il tifo di tutti i miei cugini con i quali ho avuto occasione anche di fare ulteriormente rapporti, per cui c'è tanto entusiasmo anche se la neve non è proprio il loro elemento. C'è di fondo un messaggio, no, che lanci con questa sfida, non c'è solo un sogno sportivo che già di per sé basterebbe e avanzerebbe, vuoi dare anche un messaggio di diversità e di convivenza, no? Assolutamente, perché comunque io sono nata e cresciuta in Italia, nella cultura italiana, però vivo anche tutti i giorni anche sulla mia pelle le difficoltà che possono incontrare persone che vengono da altri paesi, invece io ritengo che non ci sia nulla di più bello che unire i vantaggi di più culture per aprire strade nuove e sicuramente sciare per il Senegal è una strada decisamente nuova, per cui ci credo tantissimo su questo. Su quello è sicuro, sul fatto che la sfida sia innovativa non lo metterei neanche in dubbio, Ami. Decisamente. Senti, toglici una curiosità, come si dice in senegalese rappresenterò il Senegal alle Olimpiadi di Sochi 2014? Mamma mia, questa è davvero più dura, anche perché il Wolof mescola molto con parole francesi, per cui più spesso lo dico in francese per farmi capire, perché il Wolof è un dialetto di una zona del Senegal e poi ce ne sono altre, per cui per essere a livello universale, anche in Senegal di solito lo dico in francese, il Wolof è un po' più dura anche per me. Bene, allora da qui a Sochi avrai tutto il tempo di imparare tutti i dialetti senegalesi, mi raccomando, questo è il prossimo compito. Assolutamente sto andando a lezione, sembra una cosa che fa ridere, però sto andando a lezione perché appunto essendo mancato mio padre quando ero piccola ho un po' di lacune, per cui per parlare con i nonni ancora qualcosa riesco a tirarla fuori, però sto approfondendo anche quello. Beh, allora, in bocca al lupo per questo studio sui libri, ma soprattutto per questa discesa olimpica, ma anche una discesa nelle proprie radici che ti aspetta, e grazie per essere stata nostra ospite, ma anche e soprattutto per il messaggio che ci mandi, il credere nei propri sogni e volerli condividere con uno spirito di universalità e di fraternità che davvero non è comune. E allora, ami Gabriella Fall, per tutti ami e quindi anche per noi amici di A Bordo Campo, in bocca al lupo, ci vediamo a Sochi 2014, appuntamento per la cerimonia d'apertura con in mano la bandiera del Senegal. Lo spero proprio, grazie mille, grazie tanto anche a voi per esservi interessati alla mia avventura. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo che potete risentirci attraverso il nostro sito internet www.radio24.it, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. L'appuntamento, come di consueto, è per domenica prossima alle 14.30 e ogni sabato mattina in replica alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.